Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che abbiamo con noi al telefono, e c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora Gianluca, torniamo a parlare di un argomento importante che vede molti veneti coinvolti con alcune banche del territorio, soprattutto con la svalutazione importante che hanno avuto, insomma, le azioni della banca stessa, che erano azioni che non si compravano nel sistema azionario ma venivano vendute direttamente dalla banca. E questi valori si sono abbassati del 70 o anche di più per cento. Beh, guarda, basta un esempio, ecco, così dalle percentuali passiamo a, proprio a numeri concreti. Noi abbiamo proprio una nostra socia che ci ha raccontato appunto che le sue azioni sono passate da un valore di 80.000 euro a un valore di 14.000 attuali, quindi capisci bene che, insomma, sì, si è perso praticamente tutto il capitale investito. Al contrario, uno pensava di aver investito per guadagnarci qualcosa. Mm-hmm. Quindi, insomma, ci sono centinaia di risparmiatori che si ritrovano con le spalle al muro, sono disperati. Noi in questo caso stiamo parlando di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza. Certo, poi i casi si allargano anche su altre banche. Leggevo per esempio sui giornali, mi è capitato di leggere di riunioni organizzate dalle stesse banche per cercare di spiegare ai soci che cosa sarebbe stato il futuro per questi, e leggevo anche di persone che si sono organizzate in gruppi per cercare di venirne a capo della faccenda. Qualcuno però si rivolge anche all'Adico. Beh, Francesco, direi che più di qualcuno tanti, nel senso che noi stiamo seguendo adesso un centinaio di posizioni. E è pur vero che nella disperazione, insomma, si cerca di fare fronte comune, come abbiamo visto, si sono creati dei gruppi di persone, però diciamo che si viaggia, quando si è un po' improvvisati, si viaggia un po' nell'ingenuità di pensare, per esempio, che in Italia si possa fare una class action, quando in Italia sì, è stata regolamentata, prima non esisteva, però oggettivamente ha pochissime margini di manovra. Quindi anche la gente, quando viene da noi, ci dice: ma perché non facciamo una bella class action? Noi sappiamo che andrebbe a terminare in modo non conclusivo, perché poi comunque bisognerebbe tornare alle singole posizioni, perché poi ognuno ha una storia a sé stante. Quindi è una situazione complicatissima. Noi abbiamo un legale che si sta occupando esclusivamente di questa problematica, e appunto abbiamo come punto di partenza la nostra prima mediazione davanti alla Camera Arbitrale per un nostro socio, che sarà il 3 marzo. Quindi cosa succede? Davanti alla Camera Arbitrale, in teoria, dovrebbero rappresentarsi i rappresentanti della banca, in questo caso è Banca Popolare di Vicenza, e come contraltare ci dovremmo presentare appunto noi con il nostro socio. Il timore chiaramente è che la banca non si presenti, e in quel caso il socio in questione è già pronto a fare causa. Quindi, come vediamo, bisogna usare i mezzi pesanti, l'artiglieria pesante, per riuscire a ottenere quello che dovrebbe essere ottenuto per giustizia, insomma, nel senso che quei soldi sono stati investiti. Cioè, riteniamo che la banca abbia agito in modo doloso, questo contestiamo la banca, contestiamo un dolo nel momento in cui, nella fase precontrattuale, è da là che noi partiamo. Nel momento in cui la mediazione non andasse in porto, noi passeremmo immediatamente alla causa. Poi abbiamo sentito anche di comportamenti non proprio legittimi delle banche, che in alcuni casi davano il mutuo se uno comprava anche una parte di azioni della banca stessa, o cose di questo genere, che vanno riferite a singoli casi, ma che evidentemente non possono essere presi in una class action, ma proprio visti caso per caso. Esatto, Francesco, tra l'altro ti dico, l'esempio che hai fatto te in realtà è un esempio molto diffuso, è quello del mutuo, quello del finanziamento in genere. Non lo definirei un ricatto, perché non vado a usare queste parole così forti, era una proposta di un mutuo a tasso più agevolato se si compravano le azioni della banca. Però capisci bene, Francesco, che non è il modo di comportarsi questo. Tra l'altro qua stiamo parlando di un atteggiamento appunto di un certo tipo, ma in realtà, ma ne parleremo magari più avanti quando avremo anche le prove, insomma abbiamo anche situazioni di vere e proprie truffe. Noi in questo caso non usiamo la parola truffa per tutti i casi che stiamo seguendo, usiamo la parola, noi contestiamo il dolo, e nella fase precontrattuale, perché non sono stati forniti le informazioni sui rischi, corretto, sui reali rischi, e, o comunque se sono state fornite delle informazioni, sono state fornite distorte o comunque non complete, non veritiere. Questo però siamo ancora nell'ambito del dolo. Ti annuncio, Francesco, che potremo parlare fra poco anche di una vera e propria truffa, se veramente confermeremo la storia di una socia che si è rivolta a noi, insomma. Però insomma, quello ci riserveremo casomai più avanti di parlarne. Ecco, quindi oggi ne abbiamo parlato perché? Perché se qualcuno ancora non si fosse fatto aiutare da un'associazione difesa consumatori, piuttosto che magari è il caso di iniziare a vedere questa cosa, no? Perché magari qualcuno dice: ma sì, tanto non succederà mai niente, ormai li ho persi. Questo è il grosso problema. È il grosso problema degli italiani, se vogliamo usare questo termine un po' così populista. Tanti, ma devo dire la verità che anche qualche persona si è rivolta da noi già dicendo: ma è tanto, non riusciremo a combinare niente. Noi come associazione abbiamo molta fiducia in realtà e stiamo andando avanti a sprombattuto. Chiediamo insomma anche alle persone di aver fiducia, perché non si possono lasciare tutti questi soldi alle banche. Bisogna lottare, bisogna lottare. Va bene, quindi ricordiamo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove ci sono i numeri di telefono e la possibilità di contattarvi. Benissimo. Grazie quindi a te, Gianluca, magari torneremo a riparlare di questo argomento. Sicuramente, sicuramente. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.